siamo soli nel mezzo del mondo. Qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta è non essere soli. Quello che conta è che tu sei con me. Adesso che il fumo cancella l'estate, il grigio ritorna scendendo su noi. La lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà. Non parlare più, guarda la strada e va. Io sono qui con te, tu sei con me. Il grigio ritorna scendendo su noi. La lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà.